La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al primo conflitto mondiale. Il prossimo anno saranno 100 anni dallo scoppio della Grande Guerra ed è già in piena attività il Comitato Storico Scientifico per il centenario della Prima Guerra Mondiale, che ha in programma molte iniziative. Ospite ai nostri microfoni lo storico Mario Isnenghi. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alla guerra in Vietnam e in particolare alla strategia che attuò il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, una politica basata sulla forza e la segretezza, che causò un ulteriore incremento delle proteste pacifiste che condussero gli Stati Uniti a una crisi interna senza precedenti. La parola adesso va a Dino Pesole. L'appuntamento è per l'estate del 2014, quando verranno rievocati in diversi paesi europei i 100 anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, ma già da alcuni mesi ha preso avvio da noi un fitto programma di iniziative predisposto dal Comitato Storico Scientifico proprio per il centenario della Prima Guerra Mondiale. Tra queste iniziative ricordiamo la mostra Verso la Grande Guerra, che è stata inaugurata il 3 novembre al Vittoriano a Roma, aperta al pubblico dal giorno successivo e fino al 6 gennaio. Una mostra che ha raccontato la guerra attraverso la storia, la cultura, la letteratura, l'arte, l'economia e anche l'alimentazione. Oltre 10 milioni di morti, circa 20 milioni di feriti e mutilati, un'intera generazione, quella dei nati nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, di fatto decimata. L'inutile strage, come la definì il Papa Benedetto XV nel suo accorato appello ai belligeranti il 1 agosto 1917, ebbe inizio per l'Italia il 24 maggio del 1915. Da quella guerra, il mondo di allora uscì profondamente trasformato nei suoi equilibri geopolitici. Quando l'Italia entra nel conflitto mondiale il 24 maggio 1915, a fianco dell'intesa contro l'impero austro-ungarico, la guerra è già iniziata da 10 mesi. Il 2 agosto 1914 il governo presieduto da Antonio Calandra aveva dichiarato la neutralità dell'Italia, una decisione giustificata dal carattere difensivo della Triplice Alleanza, che aveva trovato concordi in un primo tempo tutte le principali forze politiche. Poi si aprì un acceso confronto tra i neutralisti, guidati dallo schieramento liberale che faceva capo a Giovanni Giolitti, dai cattolici e dai socialisti, e gli interventisti, capeggiati dai nazionalisti. Al momento dell'entrata in guerra era diffusa la convinzione che una rapida campagna militare sarebbe bastata per aver ragione degli avversari. La realtà, come sappiamo, ben presto si incaricò di mostrare il contrario. L'Italia cominciò le operazioni con 35 divisioni di fanteria, ma poca artiglieria pesante. Il generale Cadorna puntava a raggiungere Lubiana, per poi puntare su Vienna. In realtà riuscì a conseguire solo minimi vantaggi territoriali sull'Isonzo e sul Carso. Fu una guerra lunga di logoramento, una guerra di trincea sanguinosissima che vide l'Italia soccombere a Caporetto il 24 ottobre 1917 e poi risultare alla fine vincitrice. Quando il 24 ottobre 1918 gli italiani lanciarono l'offensiva sul fronte del Piave, l'impero era ormai in rotta. Sconfitti sul campo nella battaglia di Vittorio Veneto, gli austriaci firmarono il 3 novembre l'armistizio con l'Italia a Villa Giusti, nei pressi di Padova, che sarebbe entrato in vigore il giorno successivo, il 4 novembre. Il conflitto costò 157 miliardi di lire. Il PIL in quel periodo era di 95 miliardi. Buonasera e benvenuto al professor Mario Isnenghi, docente di storia contemporanea all'Università di Venezia, autore, tra gli altri, di un importantissimo libro, Il mito della Grande Guerra, pubblicato dal Mulino, pubblicato in diverse edizioni. Buonasera, professore. Buonasera. Ci aiuti a capire, allora, sì, certo, siamo partiti con un po' d'anticipo rispetto alle celebrazioni che ci saranno, ma lei che è un grande esperto della Prima Guerra Mondiale, c'è il rischio che si perda nel corso del tempo la memoria storica di quel che avvenne così tanti anni fa? La memoria no, di sicuro, la storia forse. Memoria e storia non sono la stessa cosa. Certo. Ci sono tante ragioni che portano a ricordare, a guardare ancora alla Grande Guerra piuttosto che a tanti altri avvenimenti della storia, proprio ed anche come strage, inutile o no, certamente come grande strage. Il nostro pacifismo, il pacifismo dei nostri anni, protesta e prima ancora si sorprende grandemente che abbia potuto esserci questa strage. Quindi ci sono molte ragioni per continuare a pensarci, ma naturalmente storicizzare un fenomeno richiede che si abbia voglia di chiedersi perché loro, coloro che vivevano quel fenomeno, l'abbiano voluto, l'abbiano vissuto. E questo non sempre ci avviene. Ecco, molto spesso facciamo così delle petizioni di carattere etico attuale, appunto in chiave pacifista, senza ammettere che tanti allora volessero fare la guerra, per diverse motivazioni, con diversi scopi, ben si intende. Certo, uno dei molti meriti, bisogna dire, riconoscere del suo libro, è quello che lei ci aiuta un po' a rileggere, a ricostruire l'atteggiamento di una intera generazione di intellettuali italiani nei confronti dell'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale e dell'esperienza bellica in generale. Qual è la sintesi che si può trarre dall'atteggiamento che ebbero gli intellettuali italiani, da Marinetti a Papini, Prezzolini, Gadda, Soffici, Serra e quante altre, anche D'Annunzio naturalmente? Il primo titolo che avevo in mente prima del 1970, è in quell'anno che la Terza ha pubblicato la prima edizione, Il Mito, non era Il Mito, era La Guerra Farmaco. Ecco. Poi Vito la Terza mi persuade che questa idea medicinale non andava troppo bene, però corrispondeva, diciamo, al ragionamento che avevo fatto leggendo gli articoli e i libri nell'anteguerra giolittiano e anti-giolittiano. La medicina, la guerra come medicina, come soluzione del malessere politico ma anche esistenziale che caratterizza gli intellettuali, intellettuali in senso lato, mica soltanto i grandi artisti, i grandi scrittori, i ventenni, venticinquenni, trentenni e tutto al più, che scrivono nelle famose riviste del primo Novecento. La più famosa è La Critica di Benedetto Croce, Giovanni Gentile, e poi tutte le fiorentine come La Voce di Prezzolini, Papini, eccetera. Certo. Tutto andava male, e quale poteva essere la soluzione? Ci pensano, ne scrivono, ne discutono, finché il punto di convergenza finisce per essere la guerra. Solo igiene del mondo, no? Diceva Marinetti. Marinetti ci mette questa formula di enorme successo nel tempo, sì. La guerra sola igiene del mondo. Anche qui ha un carattere medicinale e farmaceutico, con quel che di provocatorio è tipico di Marinetti e dei futuristi. Altri sono più pacati e pensosi, come Renato Serra, per esempio. Ma insomma, mi sembra convergente verso l'idea che le cose vadano male, così pensano in molti, dentro di sé, nella psiche degli individui, nella generazione, nell'Italia, ma anche più già nel mondo. Quindi spaccare tutto, dicono i futuristi, quindi una visione pantocrastica, distruttiva, e questa è una soluzione. Altri possono sforzarsi invece di legittimare anche sul piano politico lo spargere il sangue, la richiesta di spargere il sangue alle masse. E qui ci possono essere i nazionalisti, voi avete nominato in particolare l'interventismo nazionalista nella premessa, ma c'è anche l'interventismo liberal-democratico e social-democratico. C'è l'idea che, almeno per l'Italia, si tratti della quarta guerra dell'indipendenza nazionale. Non sono nazionalisti, non si sentono nazionalisti, anche se si muovono nel nome della nazione, ma è la nazione di Mazzini, e la nazione di Mazzini non è mica quella di Enrico Corradini o di Alfredo Locco. Così almeno pensavano, così vivono nel 14-15 e poi durante la guerra gli interventisti, la diversità anche della guerra che stanno facendo. Naturalmente non era facile sostenere questa diversità fino in fondo, e alla fine si vedrà che gli interventisti liberal-democratici vengono sconfitti politicamente dagli interventisti nazionalisti. Un'ultima domanda, professore. Nell'Europa di oggi, in piena crisi economica, che fa fatica a trovare anche un percorso di vera unità politica, qual è l'insegnamento, tra virgolette, che ci tramanda una grande tragedia come quella della Prima Guerra Mondiale? Qui di nuovo torniamo alla distinzione tra storia e memoria, e aggiungo una formula: la politica della memoria, quello che posso criticare dal punto di vista storiografico lo capisco invece dal punto di vista della nuova cittadinanza europea, quindi valorizzazione si capisce in chiave di politica della memoria del male di essersi contrapposti sanguinosamente tra popoli europei e quindi tentativo di costruire una storia prossima e futura diversa proprio a partire da tutto quel sangue versato, ma senza aggiungerci nostri sensi di superfluità e inutilità, perché ogni popolo e ogni generazione ha il diritto di vivere il proprio presente, anche se poi qualche generazione dopo arrivano altri a dire ti sei sbagliato, sarà pure, ma intanto mentre viviamo ci pare che siano cose serie, mi pare che possiamo pretenderlo per noi e riconoscerlo anche per loro. Grazie professore, molte grazie e buona serata. Buona serata. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della Storia e la Memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alla guerra in Vietnam. È il 1969. Il nuovo presidente Richard Nixon elabora una nuova strategia per la guerra in Indocina, la cosiddetta dottrina Nixon, basata su uno spregiudicato uso della forza, ma in maniera più accorta e segreta. Attraverso le testimonianze dirette degli americani che allora giovani presero parte in prima persona al conflitto, vi raccontiamo di questa lunga guerra. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda venerdì 22 marzo alle 11.30 su History Channel. Percorrere questi fiumi, circondato da persone che vivono come fossimo all'età della pietra, quasi mi fa dimenticare che siamo in mezzo a una zona di guerra. Questo è il miglior modo per essere uccisi, perché qui fuori ogni cosa può cambiare all'improvviso e te ne accorgi solo quando è troppo tardi. Gary Benedetti e il suo equipaggio pattugliano il Delta negli ultimi 12 mesi. Il loro attuale incarico è quello di recuperare uno dei gruppi delle unità speciali navali dai Viet Cong. La loro imbarcazione è conosciuta come Alpha Boat, specificatamente progettata per resistere a esplosioni subacquee. Più andiamo avanti e più il fiume si restringe, fino a diventare più stretto di 30 metri. Osservavamo la zona in attesa di essere colpiti in qualsiasi momento. Non si vedeva niente, si riusciva a scorgere solo la giungla che, essendo molto fitta, impediva qualsiasi visuale. Una volta arrivato lì, ti chiedi cosa potrebbe succedere. Perché te lo aspetti? All'improvviso siamo sotto il fuoco nemico. I cecchini sono sulla costa. Tutti aprono il fuoco e non sai nemmeno a chi stai sparando. Sai solo che lo stai facendo. Cessate il fuoco! Alla radio sentiamo il comandante gridare «Cessate il fuoco! Qui Jester Alpha, cessate il fuoco!» Quando il fumo si dirada, possiamo vedere chi abbiamo colpito. È un piccolo villaggio, pieno di persone, tutte morte. Sento il sangue ribollire nelle vene. I Viet Cong lo fanno di proposito. Si nascondono tra queste persone e poi ci sparano perché sanno che noi risponderemo al fuoco. È il loro modo per far sì che i civili non si fidino più di noi. Fra poche settimane tornerò a casa e quando lo farò spero sinceramente che i vietnamiti del sud possano terminare il lavoro, perché a giudicare da come i Viet Cong trattano queste persone non so cosa accadrà se non dovessero riuscirci. A Parigi Le trattative di pace tra Vietnam del Nord e Vietnam del Sud, i Viet Cong e gli americani, sono a un punto morto. Dopo quasi 2 anni, l'unica cosa sulla quale si è d'accordo è la forma del tavolo dei negoziati. Sperando di velocizzare il processo, Henry Kissinger, consigliere per la sicurezza nazionale, inizia ad incontrarsi in segreto con il negoziatore del Vietnam del Nord, Le Dac Tho. Nel frattempo, il programma di vietnamizzazione di Nixon viene implementato lentamente ma con costanza. In tutto il paese le truppe americane stanno passando equipaggiamenti, basi e anni di esperienza militare ai vietnamiti del sud. Quando giunge voce che ormai l'obiettivo dell'America non è più quello di una vittoria militare, ma di un'onorevole uscita di scena dal Vietnam, il morale delle truppe viene pesantemente compromesso. Ho scelto proprio un bel momento per tornare in questo paese. Anche se la ragione principale per cui l'ho fatto è perché muoio dalla voglia di comandare un battaglione. Il tenente colonnello James Anderson è un aiutante del generale Creighton Abrams, comandante in capo dell'esercito americano in Vietnam. 7 anni dopo aver servito come consigliere per l'esercito della Repubblica del Vietnam, Anderson ora si prepara a prendere il comando di un battaglione americano piuttosto problematico. Il generale Abrams una sera parlò con me e mi disse: «Jim, perché non prendi il controllo di quel battaglione?» Era come se mi stesse dicendo: «Va bene, sapientone, visto che pensi di avere tutte le risposte, perché non vai e mi fai vedere come si fa?» Gli risposi che mi sarebbe piaciuto molto accettare. Anderson scopre ben presto quanto è importante che un battaglione sia unito. La porta del quartier generale del battaglione si apre ed entra un gruppo di generali. Mi fanno giurare di mantenere la segretezza, poi arrivano dritto al punto e mi chiedono: quanto ci vorrà per essere pronti a sferrare un attacco in Cambogia? Io risposi: parliamo in termini di ore, giorni, settimane o mesi? E loro risposero: parliamo di ore. Da anni i vietnamiti del nord utilizzano la vicina Cambogia come rifugio. La maggior parte del sentiero di Ho Chi Minh attraversa il paese e lungo il confine è nascosta una grande scorta di armi e rifornimenti nemici. Ma da quando iniziano le ostilità, la politica americana proibisce alle truppe di terra di entrare nel paese per non rischiare di espandere la guerra. Tuttavia, nei primi mesi del 1970, il presidente Nixon vede uno spiraglio di luce quando il leader cambogiano, Norodom Sihanouk, viene spodestato dal generale filo-americano Lon Nol. Nonostante i rischi politici, Nixon decide che vale la pena tentare di distruggere la capacità dell'esercito del Vietnam del Nord di lanciare attacchi al Vietnam del Sud. Così impartisce degli ordini segreti, inviando le truppe americane in Cambogia. È stata come una scarica di adrenalina nelle vene. Entro poche ore centinaia di soldati saranno radunati. Per via aerea arriva una massiccia quantità di munizioni e rifornimenti che viene distribuita a tutti. Nessuno riesce a contenere il proprio entusiasmo. Abbiamo aspettato per molto tempo questo momento. L'occasione di attraversare quei confini proibiti e vedere cosa c'è dall'altra parte. Finalmente andiamo in Cambogia. Il tenente colonnello James Anderson sta conducendo il suo battaglione della prima cavalleria aerea in Cambogia. Davanti a loro si estendono ondate di caccia tattici e bombardieri B-52, mentre sotto di loro marciano lunghe colonne di unità di artiglieria e armate. In tutto sono 30.000 i soldati americani che vengono disposti in assetto da combattimento. La loro missione ha 2 obiettivi. Primo, decimare i nemici e interrompere il flusso di rifornimenti dell'esercito popolare vietnamita provenienti dal sentiero Ho Chi Minh. Secondo, tentare di distruggere il centro di comando militare comunista noto come COSVN, che si dice sia localizzato nella regione di Fishhook. Non dobbiamo aspettare molto. Dopo nemmeno 2 ore arriviamo in un enorme campo di addestramento e di approvvigionamento nemico. Subito i ragazzi iniziano a chiamarla la città. La città. Perché ha tutto quello che ci si aspetta da una metropoli. Che ci si aspettava che avesse una città qualunque. C'erano scuole, ospedali, ma anche depositi di munizioni. C'era del riso. Non so quanto, ma centinaia di tonnellate. Ero sconvolto dalle dimensioni e dalla posizione, così vicina al confine. Saranno stati meno di 11 chilometri dal confine della Cambogia. Se ce n'è così tanto qui, non oso immaginare quanto ce ne sia più avanti. Ci sono così tanti rifornimenti che ci vorranno mesi per distruggerli tutti. E l'ultima cosa che voglio è rimanere a fare questo e non riuscire nella nostra missione primaria. Quindi do l'ordine a 2 compagnie di fucilieri di rimanere nella città per coordinare la sua distruzione, mentre porto le altre 3 compagnie con me, alla ricerca del centro di comando dell'esercito del Vietnam del Nord. Mentre Anderson e i suoi uomini si affrettano a raggiungere il loro obiettivo, il presidente Nixon si prepara ad affrontare il problema politico, lo scandalo che i media sicuramente provocheranno. Decide quindi di attaccare, per riuscire a dare un quadro della situazione prima che lo facciano gli altri. Il giorno dopo l'annuncio di Nixon, scoppiano proteste studentesche in decine di università in tutto il paese. Il 4 maggio, 2000 studenti marciano verso l'Università di Kent. Quando la manifestazione diventa violenta, i membri della Guardia Nazionale dell'Ohio aprono il fuoco sulla folla di studenti. In 13 secondi vengono esplosi 67 colpi. 4 studenti vengono uccisi, 8 feriti, 1 rimane paralizzato. La reazione pubblica è di orrore. 4 milioni di studenti iniziano uno sciopero minacciando la chiusura di 450 scuole medie, università e licei. Alle prese con un paese che si sta sgretolando, il presidente Nixon emette una direttiva per ridimensionare la lunghezza e gli obiettivi della missione in Cambogia. Si impegna affinché le forze militari americane non si inoltrino per più di 30 chilometri nel paese e fissa per il 30 giugno la data di rientro in Vietnam di tutte le truppe americane. Alla fine di giugno del 1970, dopo 8 settimane di operazioni, le 30.000 truppe americane si preparano a lasciare la Cambogia. Anche se la restrizione dei 30 km impedisce alle forze americane di localizzare il centro di comando dell'esercito del Vietnam del Nord, riescono comunque a confiscare e distruggere 20.000 armi nemiche, oltre 7.000 tonnellate di riso e quasi 2.000 tonnellate di munizioni, la più grande distruzione di risorse nemiche fino a quel giorno. Ma per i soldati come James Anderson è un momento bello, ma triste. Quello che veramente mi colpisce è la quantità di tempo che i nemici devono aver impiegato per ammassare tutte queste armi e munizioni. E il fatto che stavano facendo tutto questo per prepararla. Per preparare un'enorme invasione. Era chiaro. Era chiaro a tutti. Posso garantirvi che l'esercito del Vietnam del Nord troverà nuove risorse. E non appena ce ne andremo, inizierà la sua invasione. Forse abbiamo guadagnato un po' di tempo, ma niente di più. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Vietnam in HD, Dottrina Nixon, per la regia di Sammy Jackson, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione EITN. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda venerdì 22 marzo alle 11.30 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.